Italia in controluce. È da 13 di luglio Italia in controluce, l'edizione di Radio 24 condotta e coordinata da Daniele Biacchesi. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora va in onda il focus di Italia in controluce sul mondo della scuola e Piera Ceci con Scuola in controluce. Scuola in controluce. In questo mese di luglio proseguiamo le nostre chiacchierate sulla scuola, cosa ci piace, cosa invece vorremmo cambiare. Oggi ne parliamo con Carlo Scataglini, autore de Il sostegno a un caos calmo e Io non cambio mestiere, edizioni Erickson. Insegnante di sostegno della scuola media Dante Alighieri dell'Aquila, Scataglini aveva frequentato il corso per diventare insegnante di sostegno come una sorta di scorciatoia per conquistare la benedetta cattedra e transitare poi su altre materie. Poi però è scoppiata la passione e si è fermato qui. Sì, come tantissimi altri colleghi, perché io penso che la motivazione iniziale possa essere anche quella di riuscire a entrare di ruolo, no? Che poi è difficile oggi, 20 anni fa magari era meno difficile, per educazione fisica era difficile anche allora, però la motivazione si crea poi dopo giorno per giorno con la fatica, con lo studio, con la passione, con l'entusiasmo e soprattutto con gli incontri e le emozioni che si vivono nella scuola. Lei descrive il suo lavoro come un caos calmo. Sì, perché c'è questa cosa della calma piatta che è la scuola, il senso della ripetitività, però poi in effetti c'è il caos del fermento e dell'energia dei ragazzi e proprio dell'ambiente, fermento ed energia per i quali niente è scontato né uguale due volte di seguito, nemmeno entrare in classe al mattino. E l'idea del caos calmo mi viene insomma anche da proprio dal personaggio del romanzo di Veronesi, no? Pietro Paladini, che passa un anno scolastico su una panchina a guardare la scuola, proprio perché non è facile avvicinarsi, non è facile entrare e essere dentro. Poi dopo si entra e c'è la magia della scuola. Fare l'insegnante di sostegno vuol dire lavorare con ragazzi che hanno varie disabilità, chiaramente, richiedono quindi anche una competenza specifica, anzi lei la sollecita in qualche modo, anzi si pente, no? In qualche modo, in qualche caso di non aver saputo offrire a questi ragazzi una competenza più specifica. Significa però interagire anche con gli altri insegnanti, con la classe, insomma è un lavoro di relazioni faticosissimo. Sì, è un lavoro di relazioni senz'altro, di comunicazioni, e però deve essere anche un lavoro di forti competenze. Per questo gli errori se ne commettono, io ne ho commessi come tutti i miei colleghi, in particolare mi è capitato per quanto riguarda un ragazzo autistico, perché si trattava di una situazione particolare, molto difficile. Non bastava la forte motivazione, non bastava anche l'amore, l'affetto, no? Tra noi. Serviva una competenza giusta, una strategia che io non avevo, una strategia operativa. Nessuno mi aveva insegnato nel corso di specializzazione, io colpevolmente non avevo studiato e imparato da solo negli anni successivi. Questo è successo tanti anni fa, però comunque è un errore che a me ha portato problemi di autostima, però che poi sono passati nel giro di qualche mese. Per quel ragazzo là probabilmente quell'anno buttato ha causato dei problemi ben maggiori. Per questo dico prima di tutto a me stesso, a tutti i miei colleghi, anche non di sostegno, anche i colleghi disciplinari, che dobbiamo prepararci per ciascuna di queste disabilità, per ciascuna di queste situazioni, per ciascuno di questi ragazzi che abbiamo nella nostra scuola. Lei indica come errore numero uno, quello che è poi quello che mette, sì, che mette poi sì, alla fine, quello di fare questo lavoro se non si è tagliati e se non si ha la passione per farlo. Sì, tutti gli errori, io ne indico 19, li ho commessi tutti 19, il 20esimo, grazie a Dio non l'ho commesso, è quello di fare questo lavoro, cioè il mestiere di insegnante di sostegno, se non lo si ama, se non ci si è tagliati, nel senso che lo si fa fatica perché non c'è niente di meglio da fare. Ecco, in questa ottica io consiglio di non fare quell'errore, di provare qualche altro mestiere. E anche in questa ottica io sono molto contrario alla decisione del MIUR, del Ministero, di riconvertire i docenti sovrannumerari delle varie discipline, fargli fare un corso per farli diventare insegnanti di sostegno. Cioè, se non c'è una forte motivazione, e la motivazione deriva da una scelta libera, non può essere un'imposizione. Assolutamente, perché si ha a che fare davvero con un materiale prezioso e delicato, no? Ragazzi con problemi, quindi hanno già un vissuto difficile, hanno delle famiglie a volte anche particolarmente provate da queste esperienze, e quindi davvero bisogna rispondere con professionalità, perché questo è il ruolo della scuola pubblica. Questo da un lato, poi ci sono gli altri insegnanti, non sempre i rapporti sono facili come lei descrive nel libro. Le cito un passo che ovviamente le ricorderà molto bene. Credo sia opportuno che tu e il tuo alunno andiate a lavorare nell'auletta di sostegno, sai, così anche gli altri riescono a concentrarsi meglio. Oppure un altro insegnante che a sua insaputa fissò la verifica scritta nel suo giorno libero e distribuì in classe 19 fotocopie del test mentre gli alunni erano 20. Indovinate per quale alunno mancava la fotocopia? Queste sono cose che capitano, per fortuna sempre di meno, e sono episodi così un po' isolati, però bisogna fare attenzione. E bisogna fare attenzione soprattutto a non dare la responsabilità e la colpa solo da una parte, che probabilmente se non c'è sensibilità, se non c'è coinvolgimento da parte dei docenti, dei colleghi disciplinari delle varie materie, la colpa un po' anche nostra, di non insegnanti di sostegno, procurando materiali didattici, spiegando, non stancandosi mai di spiegare quelle che sono le necessità di quell'alunno, perché poi a cascata questi materiali e queste necessità vanno a riguardare un po' tutti gli alunni. Successo maggiore è quando un collega di matematica gli dice: scusa, ma questa scheda che tu hai preparato per quell'alunno là, perché non ne facciamo una decina di fotocopie e proviamo a darla anche agli altri? Anche perché, insomma, non nascondiamocelo, i ragazzi con le diverse problematiche che possano presentare vengono a volte vissuti con un po' di fastidio. Ma questo capita, però capita raramente. Diciamo che la scuola pubblica ha fatto degli enormi passi in avanti in questo senso. Si è capito soprattutto che quell'approccio al lavoro di cui parlavo prima, no? Distinguere difficoltà, risorse, motivazioni, interessi e desideri per l'alunno disabile, è un processo per poi stilare un programma di lavoro, è un processo che funziona per tutta la classe. Quindi l'alunno disabile inserito nella classe è diventato una risorsa, cioè una specie di chiave che ha aperto un modo nuovo di fare scuola. Non sempre è così, ci sono a volte delle difficoltà con alcuni colleghi, io aggiungo anche con alcuni dirigenti scolastici che spesso si dimenticano un po' di questi ragazzi, però sono casi così, non proprio frequenti. Diciamo che la scuola pubblica ha fatto dei passi in avanti. Il suo lavoro è un lavoro da svolgere a porte aperte, no? Dice in un capitolo del libro. Racconta anche proprio un'esperienza pratica, no? Di due ragazzi che sono entrati nell'aula di sostegno a lavorare con il ragazzo che stava seguendo in quel momento, e il lavoro è diventato improvvisamente più bello, più aperto, certo, più facile. Sì, diciamo che io, ecco, l'augurio è sempre quello che le aule di sostegno non debbano più esistere, però dal momento che ci sono, in alcuni casi sono necessarie ancora per fare un lavoro individualizzato, di recupero, di sostegno, è bene che non sia l'alunno disabile da solo in rapporto uno a uno col proprio insegnante di sostegno oppure con l'assistente educativo, ma che ci sia il piccolo gruppo, che in genere funziona bene in tutti e due i sensi, perché anche i compagni che lavorano in quest'aula di sostegno con l'alunno disabile imparano perché, insomma, una strategia di apprendimento che funziona benissimo è quella del provare ad insegnare ad altri. Nel momento in cui provo ad insegnare una cosa ad un'altra persona, è il momento che imparo veramente bene quella cosa. Però l'ambiente privilegiato dell'apprendimento, dell'insegnamento, deve essere l'aula di classe, è chiaro, quella deve essere la norma. So che è difficile come rispondere a questa domanda che le sto per fare, sì, la faccia. Però ci proviamo lo stesso. Qual è stata la sua maggiore soddisfazione con tutti i ragazzi che ha seguito? C'è stato un ragazzo di cui conserva il ricordo maggiormente, che con lui ha avuto proprio la sensazione di avercela fatta? Sì, c'è un certo punto nel libro quel racconto del io con te ci ho litigato, no? Del ragazzo che vado a trovare dopo 20 anni, è stato il primo alunno che ha avuto, e con lui, insomma, è rimasto un rapporto, una relazione importante, e dei risultati proprio a livello di di inclusione nella classe, no? Di imparare magari qualcosa in meno, però di farlo sempre insieme, insieme ai compagni. Con cui poi è diventato anche amico su Facebook. Esattamente, esattamente. Bella professor, questa bella frase professor. Per lei è stata come una conquista, vuol dire che il rapporto è rimasto anche nel tempo, insomma, ormai indissolubile. Sì, è così. L'Italia in controluce, questa come tutte le puntate scaricabile in podcast, siamo su Facebook, la pagina del gruppo e Twitter, la nostra mail controluce@radio24.it. Torniamo lunedì alle 13.30 su Radio 24 con un importante reportage di Valeria De Rosa. Iniziamo a ragionare sulle buone pratiche di amministrazione pubblica, cioè alla descrizione di che cos'è la democrazia partecipata, partendo dall'esperienza di Genova.